24 mattino. 22 minuti, 19 secondi, è una puntata in diretta perché da soli 22 minuti sono iniziate le operazioni di scrutinio in Sicilia, mentre si sono quasi chiuse quelle di Ostia, mancano un pugno di comuni, ballottaggio Movimento 5 Stelle, centrodestra come in Sicilia, PD terzo. E allora iniziamo la rassegna stampa di oggi con i cani e i gatti, si chiude con la mitragliata. Lo sapete che a Mosca il palazzo delle fucilazioni diventa una boutique? Ce lo racconta sulla stampa Giuseppe Agliastro a pagina 15. Lì si moriva e adesso ci sarà un grande magazzino. Allè! La scienza batte il tempo, entro 3 anni avremo la pillola dell'eterna giovinezza. E l'apertura di pagina 12 di Libero, un'intera paginata su un libro, Forever Young, scritto da Roberta e Simona Mercuri, hanno raccolto tutto quello che la ricerca ci ha insegnato sulla vecchiaia e sull'invecchiamento. Pensate, fare l'amore 3 volte a settimana fa perdere dai 7 ai 12 anni, cioè fa ringiovanire mediamente fra i 7 e i 12 anni, quindi è un buon incentivo, direi, procreatevi. E sul giornale, lo citavo stamattina, Stefano Zurlo è l'unico a raccontare questa incredibile storia, la storia di Schettini. Ve lo ricordate? Antonio Schettini era un boss che nel 90 ha ammazzato il figlio di Cutolo, ha un curriculum da Guinness dei primati, 59 omicidi di cui 37 eseguiti di persona. All'inizio del 2018, dopo 26 anni di carcere, sarà libero. Ale! Raccontiamo da un po' di giorni con attenzione le flessioni del mercato del burro. E come sapete in Francia è la crisi. Ebbene, sul Fatto, pagina 17, il crollo in Francia fa volare il burro italiano. Più 113%, parapà, parapà, bene. E Tugliani sul Tempo, molto interessante, pensate, è stato arrestato perché lui è andato a denunciare un giornalista che lo aveva trovato, un giornalista della Sette, Daniele Bonistalli, parla sul Tempo. Tugliani ha fatto di tutto per farci arrestare, alla fine è stato arrestato lui. Ale. Allora, i cani e i gatti, eccoci Oscar, dove sei? Eccoci qua. Allora, il tuo micro editoriale in pillola? Il mio micro editoriale in pillola lo vuoi sulle elezioni siciliane? Perché io lo faccio sulla, l'ho fatto sulla Lobianca stamattina, il primo. Il mercato fa giustizia, caro mio. Viva che le carceri di ogni dittatura diventano un supermercato del lusso. Invece il mio editorialino piccolo è sulla Sicilia, è questo, che per me vedremo naturalmente i voti, ma detto tutto questo, l'alternativa vera post Sicilia non era in Ci Silenzi No. E se il PD inizia a parlare al tono del realismo o continua col tono della regalità? Ecco, punto. Regalità, ecco la R, perché quello è l'unico tono che abbiamo sentito usare. Questi dati magari ci diranno che naturalmente l'Italia è un'altra, è tutt'altra cosa, è da Ostia, dalla Sicilia, verissimo, per carità, però insomma, un po' di realismo, ecco, forse fa bene a tutti. Allora, fra noi una firma del Sole, Barbara Fiammeri, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Hai fatto nottata ieri? Sì, ma con molta tranquillità, sono dati che erano abbastanza attesi, non trovo nessuna sorpresa. E lo so, però erano sorprendenti già le aspettative. 800-24-0024 per chiamare, 349-238-6666. Barbara, che succede ora secondo te? Cosa cambia per il governo, per la maggioranza, per Renzi? Ma certamente per Renzi la botta, per quanto come diceva Oscar farà di tutto per dire che la Sicilia è la Sicilia, l'Italia è un'altra cosa, però la botta è forte e si farà sentire. È immaginabile che ci sarà un tentativo, ecco, uso questa espressione, tentativo di resa dei conti all'interno del Partito Democratico con l'ala di minoranza, di Orlando, ma anche con una parte della maggioranza, ovvero Franceschini, che chiederanno al segretario, come dire, non forse un passo indietro, ma insomma di lato, un tentativo di allargare il più possibile, di far dialogare il più possibile il PD con altre forze. Il problema è che quello che ci dice il voto siciliano è che le altre forze, la famosa sinistra-sinistra, ovvero i bersaniani, daleniani, non è che siano andati bene, cioè Fava di fatto ha ottenuto un risultato simile a quello che ottenne 5 anni fa quando Bersani non c'era, quindi è difficile in questo momento, come dire, pensare che un'alleanza a sinistra del PD possa resuscitare in qualche modo il Partito Democratico. C'è una crisi e questa crisi andrà affrontata senza facili scorciatoie probabilmente. A destra cosa succede invece secondo te? Ma a destra secondo me c'è, come dire, è una situazione un po' paradossale, sono costretti a stare insieme perché, come ha fatto anche in altre occasioni, è l'elettorato di centrodestra che vuole il centrodestra unito, anche se forse Berlusconi e Salvini di stare proprio insieme a braccetto non hanno così tanta voglia, però sono costretti perché il loro elettorato li richiama all'unità, cioè si vince insieme. Vero, molto vero. Sì, cioè la Sicilia secondo me tra l'altro dice alcune cose, dice anzitutto che si vince con Berlusconi, questa cioè al sud Forza Italia esiste ancora perché in Sicilia è il secondo partito dopo i 5 Stelle che distanziano tutti di diversi punti, però comunque è il partito che c'è. E quindi se il centrodestra pensa di tornare al governo deve essere un'alleanza collettiva. La Meloni in qualche modo ha vinto perché ha messo il cappello su Musumeci. Lo ha sostenuto quando nessuno lo voleva, diciamo pure la verità. Sì, ma poi la storia di Musumeci, cioè vengono tutte e due dalla storia dell'ex Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, cioè è quella storia lì e quindi giustamente la Meloni può essere orgogliosa e felice della scelta fatta. Salvini ci ha messo la faccia perché comunque pur entrando, come dire, in una terra non ospitale per la Lega, perché insomma raccoglie pochi consensi al sud, comunque ha confermato questa posizione di Lega Nazionale mettendoci la faccia, stando a Palermo sì. Più di quanto sia stato per il referendum. E con la Meloni nella lista civica insieme prendono quasi il 6%. Grazie Barbara, c'è un effetto riverbero quasi mistico sulla tua voce, deve essere la grande emozione di questa mattina. Oscar, vuoi aggiungere qualcosa sui 5 Stelle? Perché è impressionante, continuano a crescere, ma il meccanismo della coalizione li frega. Ora guardavo una tabella riassuntiva del Corriere, in 5 anni hanno raddoppiato i voti, ma non bastano. Beh, non bastano, non bastano. Sembra che non bastino se sono veri gli exit poll. Non bastano se sono veri gli exit poll, però voglio dire, dall'altra parte questi 5 anni e soprattutto negli ultimi due o tre l'attacco concentrico di tutto il resto della politica nei loro confronti, virgola, e l'esperienza anche molto problematica, per non dire con vasti tratti di negatività, a Roma eccetera eccetera, però come vedi sembra rimbalzare questo, anzi sembra confermarli nella posizione di essere gli unici veri oppositori. Questa cosa che negli ultimi anni, parliamoci chiaro, Renzi ha tentato di sfondare verso l'elettorato dei 5 Stelle con la protesta, cambiando tono dopo il 4 dicembre, perché prima era tutt'altro il tono, e poi invece fino al 4 dicembre e anche dopo era convinto di sfondare verso l'elettorato del centrodestra perché Berlusconi era dato per morto. Queste due cose non funzionano. Ecco, questo mi pare il dato fondamentale. Sì, non ha funzionato lo sfondamento. Non lo sfondamento, né da una parte né dall'altra. E anzi ha perso voti a sinistra, probabilmente anche per effetto dell'alleanza con Alfano, che i media hanno digerito con molta leggerezza, ma l'elettorato del PD non tanto. Il problema è, secondo me, sul centrodestra sì. A livello nazionale c'è una nota, perché secondo me chi lo soffre di più è Salvini, perché Salvini ha a propria volta puntato una leadership galoppante verso l'idea che Berlusconi non aveva più il bastone in mano, e alternativa sullo stile e su anche alcune scelte di fondo della politica rispetto all'elettorato del centrodestra. E qui si vede che invece la cosa è un po' come dice Barbara Femmeri, e quindi Berlusconi tiene in mano il timone. Uno, due, i toni sono diversi e questo a livello nazionale è un po' di attrito lo porrà. Allora, fra un istante con noi Antonio Padellaro, c'è la pubblicità, c'è Guido da Milano che già si scalda e parliamo di cosa accadrà a Renzi. 8, 31 minuti, 38 secondi pubblici. State ascoltando un programma offerto da... Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Buongiorno i cani gatti, Luca Telese, Oscar Giannino e con noi guest star Antonio Padellaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Direttore emerito, fondatore del Fatto Quotidiano, oggi la persona più appropriata per commentare quello che succede in Sicilia, anche perché lì ha le sue radici. Antonio, come valuti questa avanzata dei 5 Stelle, fermati però dal maggiore potere coalizionale del centrodestra? Beh, che i 5 Stelle sono definitivamente la forza, la più grande forza oggi di opposizione, lo erano già ieri, ma ovviamente la loro ambizione ad essere forza di maggioranza relativa si consolida, parlo delle prossime elezioni politiche. Certo. Il problema qual è? È che da soli non possono governare, o almeno così sembra, anche per effetto della legge elettorale detta Rosatellum. Quindi essi sono davanti a un bivio: o continuano a stare, come dice, sulla riva del fiume, aspettando il cadavere del Partito Democratico, perché insomma questa è evidente che c'è un disastro del centro-sinistra che non finisce in Sicilia. Oppure decidono di cominciare a considerare l'ipotesi di alleanze ovviamente su alcuni temi. Ma pensi che sia possibile, Antonio? Perché finora è stato un dogma, no alleanze, no alleanze. E poi pensi che perderebbero voti se si alleassero? Ma guarda, io penso che dentro il Movimento 5 Stelle già questo bivio sia chiaro, e ci sia chi invece pensa che non si può restare in questo splendido isolamento, rischiando di fare alla fine, ricorderai Luca, del PC degli anni 70, ricordi la cosiddetta convenzio ad exudendum, certo, no? In cui tutti gli altri dicevano il PC no. Con il PC no. Ora, in questo caso è il Movimento 5 Stelle che si autoesclude. La convenzio ad autoescludendum, abbiamo coniato. Esatto. È evidente che però loro possono certamente diventare sempre più forti, ma se i loro voti non vengono poi giocati sul piano del governo, anche gli elettori possono stufarsi, attenzione. Quindi questo è il momento decisivo in cui Grillo, Di Maio, Di Battista devono decidere cosa fare da grandi. Quindi tu pensi che dovrebbero e potrebbero aprire alle alleanze? Sì, devono farlo, soprattutto perché, attenzione, c'è la sinistra uscita, i fuoriusciti cosiddetti dal PD, e parlo di Bersani, e parlo per esempio di Fava in Sicilia, eccetera, e che non mi sembrano refrattari, non mi sembrano negativi nei confronti dei 5 Stelle. Io leggo, le leggiamo tutti le dichiarazioni di Bersani, che è pieno di apprezzamenti nei confronti del Movimento 5 Stelle. Sì. Quindi attenzione che si potrebbero creare delle maggioranze sui problemi, sulle scelte, sulle riforme da fare, eccetera, con la sinistra, se la sinistra anch'essa decide cosa vuole fare, perché andare lì a rosicchiare qualche punticino ai già messi male, già disgraziati del Partito Democratico, mi sembra un'ambizione un po' limitata, no? Oscar, vuoi intervenire su questo? Perché mi sembra un po' il nodo, no? La convenzione ad autoescludendum fino a ieri era basata sul fatto se ci alleiamo perdiamo voti. Adesso forse anche la differenza fra i voti della lista Fava e del candidato Fava potrebbe essere un pezzo di voto disgiunto di elettori che hanno votato Cancelleri votando la lista di sinistra per farlo vincere. Saluto e condivido in larga parte quello che ha detto il direttore emerito. Chiamato tu. Abbiamo un direttore emerito, pensa, Ratzinger e Padellaro, e un direttore omerico, perché il Calfari ieri mi ha fatto ridere, perché ormai è omerico, nel senso che cambia idea su Renzi. Ho contato 27 cambi di idea del Scalfari negli ultimi 3 anni, ma davvero 27, nel senso che ce l'ho ritagliati da parte. Ieri concludeva Scalfari dicendo che senza Stato Maggiore Renzi deve tornare a Pontassieve, chissà poi perché Pontassieve. Ma detto questo, al di là di questa osservazione, ho capito, però allora, se vuoi ti do 26 ai versione diversa di Scalfari, in cui diceva che era solo lui perché era l'unico vero leader di sinistra del PD. Però detto tutto questo, l'osservazione di Antonio la condivido, ma a un chiede ai 5 Stelle una riflessione e uno scatto. Perché? Perché fino a questo momento la natura dell'autoesclusione di alleanze ha consentito a livello nazionale molto spesso su alcuni temi di bordeggiare con un colpo di qua e un colpo di là. Per esempio, classico tema sugli immigrati, tante volte abbiamo da osservatori visto che la base protendeva più a essere aperturista verso i temi dell'accoglienza, dell'integrazione eccetera, e il vertice faceva correzioni di barra durissime verso invece le posizioni, non voglio dire Lega, ma sicuramente chiusura, barriere, rigidità, fuori, non integrazione. Allora, su alcuni temi fare la scelta che indica Padellaro significa appunto doversi porre alcune questioni, non poter più fare democristianamente A e il contrario di A. Io credo che sarebbe utile, perché in ogni caso darebbe al paese, vista la legge elettorale sciagurata che hanno confezionato, la possibilità di confrontare, obbligare tutto il resto a fare coalizioni vere, vere, perché a quel punto sarebbe un sistema contendibile, comunque anche in questo schifo di legge elettorale del Rosato. Invece, sottraendosi, fa il gioco esattamente di chi ha fatto il compromesso di questa legge elettorale, cioè di rendere inutile il voto degli italiani, perché tutti poi resteranno a mani libere. Ecco, la metto proprio dal punto di vista non solo dell'interesse proprio, perché questo lo valuteranno loro, ma dell'interesse di sistema, per far votare di più e far pesare di più il voto di noi tutti italiani. Allora Antonio, una valutazione su Renzi, ti introduco con il tweet più perfido che ho letto stamattina: ancora nessun messaggio di Renzi sui social, avrà finito i giga. Da due giorni non aggiorna Twitter, non è casuale. Cioè, io credo che oggi la stampa abbia fatto un buon lavoro elencando la serie di sconfitte dalle famoso 40% delle europee a oggi. Io non lo so, non sono uno storico dello sconfittismo, ma non credo che ci sia, è un bel record, non è azzeccata una dal 2014. Ora, però, purtroppo il Partito Democratico si è impiccato alla corda di Renzi, perché Renzi porta alla sconfitta, certamente, ma come fai a cambiarlo in corsa? Oggi, anche se lui si dice disposto, meno così dicono i retroscenisti. Ma questo hai ragione, però, perché che lui dica adesso alleiamoci, cioè capovolgere e rottamare quello che lui ha detto con durezza e superbia per tanti mesi, ma come si fa, Antonio? Come si fa? Infatti è difficile adesso uscire da questo labirinto. Tra l'altro io ieri sera vedevo questo povero faraone, dico povero perché mandato allo sbaraglio su tutte le televisioni a giustificare una catastrofe, no? È un terribile. Ma con chi se la prendevano? Se la prendeva una cosa penosa, con Crocetta, la colpa è di... Ma certo che la colpa è di Crocetta, ma perché Crocetta ha governato male, è di Grasso. Cioè adesso il responsabile della perché non ha voluto candidarsi col centrosinistra? Ma perché l'elettore di siciliano dice: ah, ecco, questo Grasso non si vuole candidare e quindi non darò il voto al Partito Democratico? Ma io non lo so, ma ci bisogna anche pensare che chi ti ascolta non sia del tutto imbecille. Cioè c'è una, però una bisognerebbe anche mostrare un po' di fiducia nella intelligenza di chi ci ascolta, no? E quindi questa cosa però dimostra una debolezza estrema, cioè di anche degli argomenti di chi deve, no, da oggi ricominciare da capo. Cioè come ricominciano da capo? Come vanno alle prossime elezioni politiche se continuano a massacrarsi l'uno con l'altro e a dare all'esterno la sensazione di un partito senza bussola? Bella domanda, Guido da Milano, il primo ascoltatore. Sentiamo oggi 800 24 00 24 per chiamare. Buongiorno Oscar, buongiorno Luca. Buongiorno anche a Padellaro. Ecco, buongiorno Padellaro. Buongiorno. Io ho una considerazione incrociata, nel senso che da un lato direi che il dato più importante sia delle elezioni siciliane che di quelle di Ostia non è il fatto che sia primo il centrodestra e secondo 5 Stelle o viceversa, ma l'astensionismo. Astensionismo in crescita con la dimostrazione reale che, e qui arrivo alla seconda considerazione, lo stile populista che ormai attraverso un po' tutti i partiti è sempre più lontano dai cittadini, perché si spostano voti gridando, facendo manifestazioni in piazza con urla, insulti, insulti all'altro partito, insulti all'altro politico, e alla fine va sempre meno gente a votare. E ve lo dice una persona che è stata candidata alle elezioni comunali di Milano con il centrodestra nel 2011 e oggi sono veramente sempre più disinteressato nei confronti della politica. Probabilmente se non viaggiassi tanto in macchina ascoltandovi tutti i giorni saprei quasi nulla di. Allora facciamo rispondere a Padellaro su questo e deve salutarci, ma è interessante, il dato è molto basso, Antonio, molto bassa l'affluenza al voto. Allora, cominciamo da questo rapidamente, è molto basso, lo è da tanto tempo, molto basso, però posso dire che ai listati maggiori dei partiti, al ceto politico, interessa poco che sia molto basso. Concordo. Perché, questo è evidentemente, non, anche se si vota di meno, comunque quella torta se la spartiscono loro. Cioè, noi, è giusta l'osservazione del distacco, del disincanto, però il gioco è sempre quello, quindi anche se si votasse paradossalmente il 10% degli elettori, si dividerebbero quel 10%, punto primo. D'accordissimo sul fatto che basta urlare, strillare, prendersi insulti, non se ne può più. Allora, questo lo dico anche ai 5 Stelle, i quali devono anche essi cambiare stile, un po' Di Maio sta tentando di farlo, ma questo continuo dire è colpa loro, è colpa, dicessero cosa vogliono fare una volta che vanno al governo, diventassero maggiorenni. Bene, grazie Antonio Padellaro. Abbiamo tanti ascoltatori in attesa, abbiamo Oscar e anche un altro ospite forse in arrivo, speriamo di sentire la voce di Faraone e ci fermiamo per la pubblicità. Mattino. Però la grande domanda, Oscar, l'abbiamo sfiorata con Padellaro mentre riceviamo Stefano da Milano. La grande domanda è, ma il Movimento 5 Stelle non perderebbe voti con un'eventuale alleanza? Beh, dovrebbe fare una scelta politica, perché l'alleanza è questa, e quindi rispetto a essere, per così dire, imprevedibile e abbattere posizioni che però sono contrastanti e autoevidenti, perché è avvenuto spesso questo, per essere il catch-all party, per capirci, cioè quello che prende i voti sia di destra che di sinistra, in uscita sia da destra che da sinistra, allearsi significa dover fare una scelta. Questo è inevitabile, però a cosa servono i partiti? Questa è la domanda. Solo a prendere voti? Grillo spesso negli anni, non lo ha mai formalizzato, ma ci sono dichiarazioni di Grillo che dicono: ma il problema per noi è quello di catalizzare il più dei partiti, fare l'opposizione più che governare. I partiti servono per governare a un certo punto, perché altrimenti poi alla fine, negli anni, la capacità di tenerli sempre sull'estrema tensione che acchiappa, ecco, certo, è un limite asintotico che poi diventa il motivo del loro declino, dei loro declino come partito. Allora io penso anche adesso che ci sia la prospettiva di fare una scelta, ma questo significherebbe discussioni interne, quindi non me l'aspetto entro le politiche, perché il compromesso interno di quella forma organizzativa non consente scelte se non dietro i veli. Ecco, e queste sarebbero scelte con cui qualcuno non andrebbe d'accordo, ma significa non porsi il problema di approfittare adesso della debolezza altrui. Tante chiamate, Enrico da Foggia. Pronto, buongiorno. A tutti. Buongiorno. Ci senti tutte le mattine, Enrico? Io vi seguo attentamente, seguo tutta la programmazione di Radio 24. Vai. Volevo dire semplicemente, io sono un elettore del Movimento 5 Stelle, dagli albori. Concordo sulla tematica relativa alle alleanze. È giunto il momento di chiamare al tavolo delle trattative, come si fa quando si vince una guerra. Io preferisco i bersaniani, e là disporre, o perlomeno chiarire, quali sono le tematiche a noi più care, a partire dalla scelta dei candidati in su, e vedere appunto chi è che concorda su almeno una parte delle nostre prerogative, questo sia a livello locale e ancor di più a livello nazionale. Chiarissimo. Chiaro. Questo, per esempio, io penso che questa posizione sia molto presente tra gli elettori, magari sì, mi sbaglio. E questo bisogna capire. Stefano da Milano. Sì, Io volevo dire che dal punto di vista dell'analisi politica del sistema sono d'accordo che ci vorrebbero le alleanze per andare al governo, eccetera, ma da elettore 5 Stelle, io sono uno che vota 5 Stelle perché mi ero stancato di votare per un partito che poi al governo, quando si trovava, pensava allo spartirsi poltrone, appunto al vantaggio di sistema, al fare sistema lì. Io voglio votare per qualcuno che ha un programma e che una volta che si trova sulle poltrone segua quel programma, a prescindere dalle alleanze. Per questo io credo che voterò ancora 5 Stelle, ma se dovessero mettersi a fare giochi da politicanti mi deluderebbero un po'. Io sono per una forza che rappresenti questo, ok? E dal punto di vista, lo vediamo, secondo me l'elettorato 5 Stelle premia questo, la coerenza almeno nella posizione politica, nell'essere antipolitico come sistema, antisistema del partito, perché comunque un elettore su tre vota il Movimento 5 Stelle, gli altri si dividono in tutta la galassia del resto dei partiti con percentuali dal 20 al 10. In due telefonate, vedete come un sismografo Radio 24, abbiamo le due anime del Movimento 5 Stelle. Resta da capire quale preponderante. Cristiano da Vicenza. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io facevo un ragionamento più semplice. Io vedevo un Renzi nel 2014 con proposte, idee nuove, anche se questa idea era la rottamazione, con proposte e cose nuove che le persone vogliono sentire. Le persone, secondo me, piace il cambiamento. Oggi vedo un Renzi che insegue e secondo me chi insegue perde. Ma più che inseguire è Renzi che dice quando c'eravamo noi il governo dei mille giorni, non conosce altra canzone, insomma, questo è, e diventa un po' persino Berlusconi, riflettiamoci, perché io non dico uno è meglio dell'altro, io faccio l'osservatorio, ma siccome quello che dice lei è vero, ma non solo è questo, secondo me è anche che la riproposizione, l'eterno ritorno dell'unico governo che conta per Berlusconi per lungo tempo era questa l'unica sua canzone e non funzionava. Infatti Berlusconi l'ha cambiata, perché devi essere uno che torna a proporre cose diverse, non dire dopo di me è come a Podemoale di Luce, perché sono Luigi XIV, perché Luigi XIV non funzionano con due elezioni l'anno come l'Italia, perché si consumano, si usurano. Ecco, quindi il problema non è solo nel 2014 il rottamatore, adesso meno, è che la canzone di oggi era sono autosufficiente, non ho bisogno di nessuno, chi non è d'accordo con il mio partito per favore esca e ci leva il disturbo e non mi coalizzerò con nessuno. Questa roba qui nelle è sue vero, labbra, però la politica italiana, Oscar, è piena di gente che ha cambiato direzione. È ti piena. Ricordo e la deve famosa anche frase lui, infatti, di Fini, non prenderò con Bossi neanche un d'accordo caffè, lo presero sì, a Teano e fui testimone oculare. Il problema per lui è che adesso deve reinventarsi e non è facile in pochi mesi con le prossime politiche dentro sì, l'angolo. Ecco, il tempo è poco, questo mi sembra il primo nodo. Qualcuno nei messaggi 800 24 00 24 per chiamare, 349 238 6666 per i messaggi, qualcuno ci dice ma siete troppo severi per Renzi, lo avete distrutto in tutti i modi per far ritornare Berlusconi. Sì, beh, questi sono i fanatici, ci sono tanti perché in quel partito sono diventati tanti, così io lo vedo dagli insulti che ricevo. Non si può ragionare, chiunque obietta, malgrado i risultati che arrivano da tanto tempo, chiunque obietta è un servo di Berlusconi, è un servo dei 5 Stelle. Si chiama fanatismo questa roba, però c'è. Però una è una politica delle forze di Renzi, cioè ha ridotto i suoi consensi, ma li ha cementificati. E di Giuseppe solito poi quando arrivano le botte finali si squagliano in pochi minuti. La storia italiana è piena di queste cose qua. Tipo? La storia italiana dei capi di partito che credono di essere intramontabili e poi alle brutte. No, scusami. Craxi com'è finito? Da solo, con tutti che facevano a gara a dimenticarlo, e Craxi ci ha provato in tutti i modi a costruire, avendo i voti e non riuscendo a dare spallate anno dopo anno, il mito dell'insostituibilità della sua capacità politica e di governo. Allora, Giuseppe, vai. Sai. Hai citato un precedente importante, Giuseppe da Treviso. Buongiorno, allora io ho constatato che il più grande partito è il partito dell'astensione. Vero. E secondo me questo ha a che fare con l'articolo 67 della Costituzione, che non pone nessun vincolo di mandato alle persone elette. Nel memoriale che ha scritto dalla prigione, Aldo Moro dice che quell'articolo andrebbe cambiato e bisognerebbe imporre l'obbligatorietà di mandato nei confronti degli elettori. Grazie. In Inghilterra, con regolare periodicità, il parlamentare deve presentarsi nel collegio elettorale. Ma è un uninominale, è tutt'altra cosa. Grazie, qui è scelto dai partiti, Giuseppe. Non è che possiamo volere il collegio uninominale, ne vogliamo bello, le caratteristiche, però. Ma non la legge elettorale. È bello però alle 8.56 avere un ascoltatore da Treviso che cita l'articolo, il memoriale di Moro, questa è la ricchezza. È l'articolo 67, sì, hai ragione. Oscar, il tuo ultimo pensierino ce l'hai oggi? Il mio ultimo pensierino va all'intervista della Fornero, un'eroina su Repubblica che no! Secondo me... te l'ho fatto apposta, ma un'eroina, perché guarda che ci vuole coraggio nelle sue camicie. C'è un killer proprio sullo sfumare. Ecco, secondo me non ti posso. Viva ma l'intervista alla Fornero. Domani ne parliamo. No, domani abbiamo i risultati veri. Ciao. Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Vi ha presentato 24 mattino.